For the illegal and corrupt poets in the world, false proof. Ho sentito qualcuno parlare di rispetto. Che magari non me lo ammettono. Ma me lo mettono. Che magari non me lo mettono. Ma me lo mettono. Boh. Forse non ti resta che strano. Non sono l'uomo. Non sono l'uomo. Ma alieno. Vengo per farti venire meno. Per farti venire meno. Non è che ci gode, soltanto che sono cronico. Io dalle stelle verrei direttamente dalle stelle del cronico. È per questo che il mio orologio mi rimane sullo stomaco. Sono così zio che non prendi fuochi da parte. Stare zitto completamente. Non sono un uomo malato solamente. La mia merda spacca. Tic tac, un'altra uvetta. Nella bocca del maresciallo scatta. Rimango qui a guardare per ore. L'orologio giù corre dentro al mio orecchio squallore. Triste vendetta, rispetta. Vado di fretta. Con questa stampa e la verità. Contro una pantella diretta. Io vado di fretta, vado di fretta. Con questa stampa e la metto niente a farti saltare. Sono contro l'ingiustizia sociale. Il mio rap psycho è magistrale. Criminale. Sappiano fanno i conti con un alieno. Scemo, anime, vieni meno. Ti meno, entro a schiaffi. Rimango tra gli stanuti. Rimo tutti, perché sono alle cagate. Che dalla tua rima getti e butti. Sono il capo dei farabutti. Il capo dei farabutti. Senza mai aver fatto un crimine nella mia vita. Potete fare credere quel cazzo che volete, ma la verità alla fine vincerà sempre.